Robinson e Bruno Mars qui all'interno della suite stonata. Tantissimi ospiti. Tra un po', anzi subito, vi presento il mio collaboratore, amico di fiducia di nonsoloturisti.it, il nostro Flavio Alagia. Ciao Flavio. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Ma non sei solo Flavio, vero? Ovviamente non sono solo, riesco quando possibile, cerco sempre di portarmi in buona compagnia. Con me stasera c'è la preziosissima Stefania Emanuele, siamo a Civita in provincia di Cosenza. Stefania ci aiuterà a scoprire questo piccolo mondo antico sul tetto del Pulvino. Buonasera, ciao, salve a tutti. Ciao Stefania, ma sei anche il presidente di Terre Ospitali, no? Sì, esatto. Okay. Terre Ospitali si occupa della promozione del turismo, ma non di qualunque turismo. Stefania, dicelo tu, esattamente perché esiste, perché hai creato Terre Ospitali. Beh, e di cosa vi occupate? Terre Ospitali, lo dice già il suo nome, promuove l'ospitalità, lo stile ospitale delle nostre terre, dei piccoli territori, dei paesi piccoli di questa zona della Calabria, e in particolar modo comunque della cultura Brescia. Quindi nasce per promuovere esperienze a chilometro zero, ospitalità e relazioni a chilometro zero. Come ti annunciavo l'altra sera, Beppe, sono a Civita, come ho già detto, in provincia di Cosenza. Civita, oltre ad essere un borgo bellissimo sulle magnifiche gole del Raganello, un canyon scavato da questo torrente che si presta, oltre a paesaggi spettacolari, anche ad attività all'aria aperta di grande divertimento, di grande soddisfazione. Civita ha la particolarità di essere una comunità arbrescia, cioè un paese italo-albanese. Stefania, oltre a essere rappresentante eccezionale della straordinaria ospitalità calabrese, è anche impegnata da sempre per diffondere e condividere questa cultura, questa eccezionalità calabrese di cui in pochi in realtà in Italia conoscono l'esistenza. Stefania, ci racconti, spieghi brevemente che cosa significa essere una comunità italo-albanese, come vi contraddistinguete? Allora, noi innanzitutto ci contraddistinguiamo col nome di Arberia, che si differenzia dalla Schiperia, che è l'Albania di oggi, contemporanea. Noi siamo l'Arberia, cioè il popolo che ha lasciato la terra natia nel 1400, più o meno quando c'è stato l'attacco dell'impero turco, e quindi si è riversata sulle zone meridionali dell'Italia. Quindi si è stanziata soprattutto nella provincia di Cosenza, dove c'è la parte più cospicua. Siamo circa 22 comunità di origine italo-albanese e poi sono diffuse piccole comunità un po' in tutta l'Italia meridionale, nel sud dell'Italia meridionale. E noi abbiamo questa particolarità che parliamo ancora la lingua madre, la lingua insomma, che si parlava 4-5 secoli fa. L'albanese del 300. Sì, come diciamo. Dire il greco antico. Come se noi ci fossimo fermati alla lingua di Dante e Petrarca. Esatto, che è intraducibile per certi aspetti, molte parole contemporanee sono intraducibili, quindi è facile oggi sentir parlare l'Arbrescia quasi dialettale, con parole originali appartenenti al 1400, però supermercato, per dire, non è una parola traducibile, quindi troviamo... Andate in prestito. Andiamo in prestito, esatto. Poi abbiamo di bello anche le danze epiche, i canti epici dedicati proprio all'eroe albanese Giorgio Castillo da Skanderbeg, che chiaramente è celebratissimo nel popolo arbrescia, nella memoria storica, perché ha liberato il popolo albanese dall'attacco dell'impero turco. E attraverso le valie, che sono queste ride, queste danze circolari, vengono anche chiamate il ballo tondo della libertà, un po' anche, diciamo, ci fanno pensare anche al ballo tondo di Matisse, no? Che questa danza circolare che evoca chiaramente tutta una letteratura, no? Dello stare insieme, della condivisione, del senso di appartenenza e di comunità, e si celebrano proprio in questi giorni. Proprio in questi giorni, esatto, durante le celebrazioni pasquali. Con i costumi tradizionali, tramandati insomma da generazione in generazione. E sono, immagino, i costumi, Flavio, sono quelli che ci sono pubblicati in un bellissimo articolo che i nostri radioascoltatori possono andare a vedere su nonsoloturisti.it. Esattamente, quello è soltanto un piccolo, una piccola breccia nella eccezionalità di questi costumi, che sono realizzati a mano con certi materiali, con certi motivi. È un'opera d'arte il costume stesso, molto molto elaborato, molto molto, insomma, un tesoro culturale anche quello. Ma Flavio, ma ci facciamo spiegare da Stefania dove si trova proprio Civita, per chi lo vorresse raggiungere, dei nostri ascoltatori? Raggiungere Civita è proprio una delle avventure di cui che ci siamo goduti in questi giorni. Come si arriva a Civita? Guarda, Stefania, paradossalmente è semplicissimo, paradossalmente, perché quando dico vivo a Civita tutti dicono: ma chissà dove stai, sulle montagne. Noi in realtà abbiamo anche il privilegio di stare in una posizione geografica favorevole, perché siamo a 7 km proprio dall'imbocco autostradale, no? La Salerno-Reggio Calabria. Mm-hmm. Quindi basta lasciare l'autostrada e dopo 7 km si arriva a Civita, senza trovarsi in sinuose curviline che non si sa dove portino. E poi siamo in collina, in realtà, tra mare e montagna, quindi vediamo a nord-est la costa ionica, la piana di Sibari, no? Che mm-hmm. oltretutto conserva anche una sua storia, una sua identità. E poi invece abbiamo detto a nord-est, giusto? Poi invece... ci siamo, poi la bussola che è qua. A nord-est, mentre a nord, proprio a nord, abbiamo la catena montuosa del Monte Pollino. Siamo uh-huh. quasi al confine con la Basilicata, diciamo che a un'ora da qui siamo in Basilicata. Quindi si possono qui praticare numerose attività sportive. Infatti Civita è la base di partenza per praticare trekking, canyoning, arrampicata, speleologia, alpinismo sulle vette del Pollino, e quindi anche per questo è favorita anche da una certa affluenza turistica che ama la natura e ama anche la scoperta di identità e culture, diciamo, non proprio alla portata, no? Uh-huh. Cioè, tu Stefania, vabbè, non lo sai, però io nei collegamenti con Flavio il martedì ospito anche una, quasi potrei dire, tua vicina, perché mi collego con Katia Corbelli, che si trova a Mormanno, quindi pure lì zona siete tutti là raggruppati. Oggi parliamo quindi di Parco Nazionale pure del Pollino, tutto ciò è fantastico se ci pensate un po', ragazzi. Ma io, prima di ridarvi la linea e farvi raccontare ancora un po' di cose, direi di ascoltarci un po' di buona musica e poi ritorniamo in diretta con voi due, ok? Ok. Grande salto nel passato con la musica qui su Radio Stonata. Sono le 20 quasi e 30. Siamo in diretta, siamo collegati con Civita, Parco Nazionale del Pollino, provincia di Cosenza. Questa sera, oltre ad avere il nostro grandissimo Flavio, abbiamo anche Stefania. Ragazzi, che cosa avete ancora da raccontarmi su questa esperienza? Soprattutto tu, Flavio, lì a Civita. Come sai, Beppe, non sono venuto soltanto per ingozzarmi di ottimi piatti e buon vino, uh-huh. 90% sì, ma c'è un 10% che ancora dedicherò a qualcosa così di un po' più produttivo, insieme a Mario Fracasso del team di Direzione Italia, bravissimo fotografo, documenteremo e condivideremo le nostre esperienze qui a Civita durante il periodo pasquale. Le foto e i racconti del nostro viaggio verranno pubblicati giorno per giorno sulla nostra pagina Facebook. Mm-hmm. Ma tutto questo non sarebbe possibile, non sarebbe neanche lontanamente così straordinario se non ci fosse stato l'intervento preziosissimo di Stefania, che ci ha veramente preparato un'accoglienza straordinaria e ci ha aiutato a selezionare le esperienze più memorabili e a combinare insieme le professionalità e gli operatori, insomma, di cui avremo bisogno per concludere il nostro progetto. Perciò potremmo anche cominciare a sognare, anticipando un po' quello che ci aspetterà in questi giorni. Uno dei momenti che attendo con più gioia e gaudio ovviamente si svolge a tavola, perché Stefania ci aprirà la porta di una cucina tradizionale civitese. E cosa scopriremo, cosa andremo a vedere in questa cucina? Allora, il piatto forte, insomma, degli Arbresh è sicuramente a base di carne. Qui si allevano bovini, suini, caprini e noi mangeremo cirita il giorno di Pasqua, l'agnello con le patate, che ha una cottura tutta sua particolare, molto lenta, sia da partire proprio dal taglio dell'agnello, che viene tagliato in maniera tale da selezionare le parti più tenere e saporite, sia dalla preparazione fatta con erbe officinali del pollino, che qui crescono spontanee, e poi l'ultima passata chiaramente nel forno per dare quella morbido croccante che rende questo piatto veramente gustoso. E infatti i ristoranti hanno dichiarato tutto pieno per domenica, dove la gente, insomma, i visitatori numerosissimi avranno la possibilità di degustare questo piatto eccezionale. Chi veramente partecipa fino in fondo alla celebrazione di questa festa, di questo evento, dei riti pasquali, sarà affamatissimo una volta che arriverà a pranzo nei ristoranti, perché qua i giochi, le danze cominciano molto presto la domenica, con una celebrazione, una messa all'alba addirittura. A che ora è che cominciamo a... Ma all'alba, quindi si suppone che il sole sorgerà verso le 5:30 più o meno. Perfetto, meraviglioso. Sì, una rappresentazione che ha insieme qualcosa di sacro, profano, ma soprattutto teatrale, perché il papà, il prete, insomma, della chiesa metterà su una messa in scena in cui scaccerà il diavolo, che busserà con una certa energia al portone della chiesa, verrà scacciato e, diciamo, si celebrerà la resurrezione del Cristo. Quindi ci sarà un pubblico che esulterà di gioia per la scacciata del diavolo dalla chiesa, quindi dalla comunità. E questa è una rappresentazione chiaramente che pochi hanno la possibilità a cui pochi hanno la possibilità di partecipare, perché è chiaro, è un orario difficile. No. Però il nostro Flavio, coraggiosissimo. Per fortuna io mi sveglio alle 5 abitualmente ogni mattina. Tutti i giorni. Non cambia niente. La domenica è in realtà alle 4:30, quindi dovrò inventarmi qualcosa da fare in quella detta finché sorge il sole. Io gli ho consigliato di andare a dormire alle 9, ma lui non vuole sapere. Ci sono più possibilità che io effettivamente compaia sulla scena se resto sveglio dalla sera prima, piuttosto che se devo svegliarmi il mattino stesso. Comunque è una situazione su cui ci metteremo d'accordo col mio amico e collega Mario, ma in ogni caso saremo lì sul momento per documentare, per raccontare anche cosa succede in questi momenti, in questi attimi un po' più profondi, un po' più sacrali. Però non è soltanto messa, non è soltanto per i riti religiosi che siamo qui. Le vaglie, infatti, nonostante si collochino nel momento pasquale, non sono legate alla tradizione religiosa. Cosa ricordano le vaglie invece? Ma si suppone, perché le fonti sono scritte, sono davvero poche, rarissime, ma si suppone che Skanderbeg abbia riportato la vittoria contro l'impero turco proprio un martedì dopo Pasqua, altrimenti non riusciamo a spiegarci perché il martedì dopo Pasqua si celebrino le vaglie, che sono queste danze che comunque attraversano tutte le vie del paese, inneggiando, insomma. Se permetti, Stefania, sì. Visto che prima l'hai accennato in maniera molto puntuale, sì, Adesso la racconto io da ignorante. Cioè, quando sono venuto qui la prima volta per Pasqua, io spesso venivo qua con i miei genitori d'estate, ovviamente, quando si facevano le vacanze. Una volta, cioè, mi sembra 16-17 anni, sono venuto qua per Pasqua e sono rimasto incantato. Nel pomeriggio cominciano con questi canti molto, molto soavi, veramente notevoli, i costumi sono già anche questi veramente spettacolari, molto, molto curati, molto, molto particolari, e tenendosi per mano, mi sembra di ricordare, no? Con questo cerchio intrappolano il turista, il forestiero dentro il cerchio, e poi Beppe, nella migliore tradizione calabrese, o Brescia in questo caso, portano il turista al bar, che mi sembra di capire per augurarsi buona fortuna, per quel gesto di deve pagare un discappo, insomma, deve offrire a tutti da bere. Quindi diciamo che sarà un evento, una festa impegnativa anche. Quindi vedo il tuo sacrificio, Davide, tutto dall'inizio alla fine. Flavio, io vedo il tuo sacrificio in tutto ciò. Ovviamente io mi sacrificherò ripetutamente in questa situazione, no? Sì, me lo immagino, sarei tutto distrutto da questo immenso sacrificio che devi fare. Dimmi, stai dicendo qualcosa? Scusa l'interruzione. Quindi mangeremo, quindi assisteremo alla celebrazione religiosa, quindi balleremo e canteremo insieme alla comunità. Assisteremo alla vestizione, anche questo è un momento veramente particolare. Vestirsi del costume tradizionale, insomma, implica una preparazione lunghissima di almeno 3 ore. Partire dall'acconciatura, finire da tutti le varie sottane. Che separano proprio la gamba dall'esterno, perché sono costumi che hanno anche un peso proprio in termini di chili materiale proprio. Non è facile indossarli e tenerli addosso per tante ore, perché pesano almeno 10 chili addosso, perché sono vestiti tessuti al telaio, sono di raso di seta, ricamati in filo d'oro, quindi ci vuole anche molta cura, molta attenzione a non strapparli, a infilarli con tutte le dovute attenzioni. E poi escono fuori queste ragazze stupende, davvero truccate e acconciate secondo la tradizione, spesso lo fanno le nonne o le zie anziane. E indossano anche tutto il corredo, dei gioielli antichi, no? Tramandati anche quelli di generazione in generazione. Diciamo che questo era il vestito nuziale, l'abito nuziale che si utilizzava per sposarsi. Quindi non è... Okay. Si mette in occasioni come queste. Non è un vestitino qualunque. No, esatto. È un vestitino di una certa importanza. Ma ragazzi, io volevo fare una battuta con te, Stefania, soprattutto perché prima fuori onda ti ho chiesto anche tu calabrese, e tu come mi hai risposto? Calabrese. Questa cosa no, è veramente bella, cioè questa cosa che hai detto è veramente bella, e quindi un sangue misto. No, sono simpatico. Calabrese, addirittura di origini spagnole, perché mia madre fa parte di un paese di origini spagnole. E poi ho anche mezzo sangue insomma. Ne viene fuori un bel melting pot, dai. Sì, infatti dalle mescolanze nascono sempre risultati migliori. No, ma Flavio, sai qual è la cosa bellissima? Cioè, questa sera la suite sembra tutta calabrese, capito? Cioè, c'è un miscuglio di calabresità che non lo so, il mio grande capo dirà: ma state facendo Radio Calabria, forse? Calabrona. Ma avete altre cose da aggiungermi, ragazzi? Ah, io solo una brevissima, che comunque Civita vale davvero la pena di essere visitata, perché abbiamo anche una ricettività che consente di ospitare almeno fino a un centinaio di visitatori. E poi offrire anche proprio questa possibilità di conoscere la cultura locale, che è davvero particolare, e poi poter mangiare bene, respirare un'aria meravigliosa che arriva dal mare, dai monti. Una ricettività, aggiungo senza alcun dubbio, assolutamente straordinaria, anche perché recupera edifici storici perfettamente integrati nel territorio. Non sono gli alberghi, non sono gli hotel da spiaggia che si incontrano altrove. Bed and breakfast assolutamente deliziosi, realizzati con grande cura, con grande personalità. Sono veramente alcune delle strutture più carine, più caratteristiche, più confortevoli che io abbia mai incontrato in Italia, i bed and breakfast. Tu in quale B&B sei stasera? Come si chiama il B&B in cui ti trovi? No, va bene, siamo... Facciamo pubblicità. Sei ospite, mi par di capire che sei ospite di Stefania, Flavio. Capito, Beppe, qua bisogna dire le cose come stanno. Ormai dirlo, no? Come si chiama questo B&B? È il bed and breakfast di Stefania, il bellissimo bed and breakfast di Stefania, è il B&B Il Comignolo. Il Comignolo di Sofia, se il si vuole cercare. Di Sofia. Stefania, ti voglio rubare un'ultima cosa. Mi lo fai un saluto prima proprio di salutarci seriamente? Un saluto a Arbresh, cioè utilizzando... Posso dire arrivederci in Arbresh? Ok, quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Mirubashim! È arrivato? Sì, sì, è arrivato. È arrivato, si è sentito bene, forte e chiaro. Flavio, io vi ringrazio, divertitevi tutte e due, ringrazio soprattutto Stefania Emanuele, presidente di Terre Ospitali e di Civita. Quindi, se volete, ancora avete tempo, quindi possono arrivare per la festività di domenica mattina alle 5, c'è posto ancora a Civita, quindi partite, arrivate. Stefania va a letto tardi, quindi se partono adesso arrivano stanotte, non c'è problema. Non c'è problema. E un grazie pure particolare al nostro Flavio di nonsoloturisti.it. Flavio, noi ci ribecchiamo martedì prossimo, vero? Assolutamente sì. Mi racconterai come è andata a finire lì. Certo. Soprattutto sono ancora vivo, ti racconto tutto. Ok, grazie Flavio e grazie Stefania e buona serata, ragazzi. Grazie a te. Buona serata a tutti. Ciao.